La versione di Oscar, di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, questo venerdì 20 di maggio, un saluto e un buon pomeriggio, oltre che un ringraziamento naturalmente per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, perché la trasmissione anche oggi viene esattamente da una domanda, o meglio, da un gruppo di domande che molti di voi le ho raccolte un po' in queste ultime settimane, hanno continuato a mandarci, dicendo: Oscar, oltre ai conti della Belva, a proposito, appuntamento ai conti della Belva, come sempre domani mattina in diretta dalle 10 alle 12, il sabato mattina per un aperitivo un po' dolce amaro e un po'... per così dire rabbrividente, ma ironicamente lo dico, sui conti pubblici italiani, i mercati, le banche. Domani dalle 10 alle 12 con i compari dei conti della Belva vi terremo compagnia. Se volete, oltretutto chiamateci sugli argomenti di cui parliamo, perché domani parliamo, visto che abbiamo ottenuto la flessibilità europea, il governo ci farà capire dove il diavolo vuole metterla, nei tagli permanenti alle imprese, alle persone fisiche, eccetera eccetera. Avremo con noi Maratin, poi parleremo dei conti di Milano, abbiamo già parlato di quelli di Roma, e poi parleremo di tante altre cose. Comunque appuntamento a domani, ma molti di voi mi hanno chiesto, però vorremmo una trasmissione ogni tanto per capire meglio come orizzontarsi sui mercati finanziari. Lo sapete che l'appuntamento dopo, fisso tutti i giorni, è quello con il nostro impareggiabile Sebastiano Barisoni con Focus Economia, per commentare l'andamento quotidiano, i trend di fondo del mercato. Però la questione che molti di voi chiedevano era: ma possibile che non ci possiate indicare alcuni punti di riferimento per fare delle previsioni, capire cosa comprare, abbiamo paura con le banche, eccetera eccetera? Allora, ogni tanto, anche se noi non siamo qui per dare, lo ripeto, noi non siamo qui per dare consigli di investimento e d'acquisto, perché il nostro è un mestiere diverso, ecco, allora ho pensato oggi di unire due esperti per non rispondere alla vostra domanda con comprate questo, vendete questo, non fidatevi di questo e fidatevi invece ciecamente di quest'altro. Inciso, domani parleremo anche per esempio di una vicenda abbastanza incredibile, visto che la più grande banca per rilevanza europea, cioè Unicredit, sono oramai 10 giorni che non fa capire a nessuno di che cosa sta parlando. Qui si tratta di aumenti di capitale, oppure in alternativa cessioni di grandi partecipate all'estero, come la Pekao in Polonia. La Polonia va benissimo, il paese europeo che è andato meglio. Si tratta di vendere la partecipata di Unicredit controllata in Polonia pur di non aumentare il capitale di Unicredit, cambiare amministratore delegato, c'è chi immagina fusioni con Mediobanca. Di tutto, più passa il silenzio al mercato, questo mi dispiace, rivela da parte degli azionisti di controllo una basilare mancanza di consapevolezza, più le attese si aggravano nel mercato. Ma ecco, questo per farvi capire che ci sono tanti elementi che vi fanno venire incertezza su cosa comprare, che cosa vendere, cosa tenere. Però la scelta di oggi, quindi, per questa trasmissione di servizio, invece si ispira ad due considerazioni di fondo. La prima è quella di farvi riflettere su quanto sbagliano le previsioni, perché le previsioni, sia fatte in base all'analisi tecnica, sia in base ad altri criteri che vengono utilizzati per la previsione dei mercati, è bene ogni tanto fermarsi e riflettere di quanto si possono sbagliare, e quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto invece riguarda quali sono le indicazioni che voi dovete seguire e di chi all'atto dell'allocazione dei vostri risparmi e della scelta dei vostri investimenti. Perché qui c'è un problema, cioè il conflitto di interessi che è insito in molto spesso e che è intrinseco, per così dire, è implicito, e voi dovete diventare sempre più abili nel capirlo. Se coloro ai quali voi vi rivolgete per i consigli finanziari, classicamente in banca, vi consigliano i prodotti di cui sono anche emittenti, e capite che questa è una cosa che è un conflitto di interesse grande come una casa. Se l'avete capito almeno da novembre a oggi che è un problema enorme, visto che le banche italiane piazzavano a montare senza precedenti in tutti i paesi OCSE di proprie obbligazioni senza dirvi che cosa rischiavate con il bail-in in arrivo, ed era deciso da metà 2013 a gennaio 2016, avreste dovuto capire che bisogna quindi porsi un altro problema. E allora il problema diventa: ok, ma allora io a chi chiedo consiglio? Ecco, e poi ci occuperemo anche di questo secondo aspetto. Ma primo aspetto, intanto, C'è qualcuno in grado di dirvi con precisione di quanto sbagliano le previsioni? Risposta: sì, c'è. Ed è collegato con noi, ha scritto proprio su questo in questi giorni Raffaele Zenti, al quale spesso ci rivolgiamo dai microfoni di Radio 24, io stesso per primo. Raffaele Zenti è tra i fondatori di Advice Only. Io vi invito a guardare con attenzione tutti i giorni, se vi occupate dei mercati finanziari, dei vostri risparmi, perché è pieno di osservazioni e ricognizioni e approfondimenti utili, se ci tenete i vostri risparmiucci e i vostri capitali. E oltre che essere tra i fondatori di Advice Only, è responsabile appunto del Financial Strategies Group, insomma di finanza ne sa parecchio, di gestione dei rischi pure. Grazie di essere con noi, Raffaele. Grazie a voi. Allora, dai un po' di queste stime rabbrividenti su cui hai scritto questo delizioso pezzo. Sono divertenti queste stime, perché allora ho trovato una banca dati che ha la storia delle previsioni dei principali analisti, ma parliamo di grandi case di gestione, banche d'affari, quindi parliamo di BlackRock, Goldman Sachs, Citi, Merrill Lynch, insomma le migliori e le più grandi banche d'affari e società di gestione del mondo. Ha raccolto le previsioni degli strategi, degli analisti, insomma chi si occupa di mercati finanziari, e poi ha messo però a confronto, il risultato vero. Quindi, e questo fatto per la borsa americana. La borsa americana che comunque è, direi che è emblematica, perché innanzitutto tutti i mercati azionari sono molto, si muovono in grande sintonia, quindi con una buona correlazione con la borsa americana, e poi perché comunque insomma è un mercato, se uno riesce, dove riuscisse a prevedere quello, in sostanza riuscirebbe a prevedere anche molte altre cose. E quindi da questo favoloso dataset, che è pubblico, chi legge il post sul nostro blog c'è il link, quindi si può andare a consultare, mi sono messo lì, ho fatto un po' di calcoli e viene fuori che, udite, dal 1998 al 2015 l'errore medio di questi analisti è 1807%, quindi 1800% è tantissimo, e questo soprattutto perché in alcuni anni in cui praticamente il mercato è rimasto piatto, comunque queste case prevedevano dei movimenti molto, molto grossi che non ci sono stati, ma anche, e direi in maniera anche ingiustificata, togliendo queste osservazioni che gonfiano molto la misura, dicendo vabbè facciamo finta di niente, guardiamo il resto, comunque l'errore rimane superiore al 150%. E giusto per darvi un'idea, è un po' come se le previsioni del tempo dicessero guardate, domani la temperatura sarà di 20 gradi centigradi e poi invece rischia di essere o di 51, quindi tipo Valle della Morte, oppure meno 11, quindi tipo in cima a un 8000 himalayano. Lui l'errore è mostruoso e non è, diciamo dire, è sparso, è sparpagliato nel tempo e direi che è diffuso, ma non per incompetenza, anche se ci possono essere delle buone motivazioni a sbagliare le previsioni, perché poi tra l'altro sbagliano in una specifica direzione, adesso lo dico tra un secondo, ma proprio perché i mercati finanziari, soprattutto su orizzonti così brevi come un anno, sei mesi, sono sostanzialmente impossibili da prevedere, e quindi è un esercizio piuttosto inutile, ma che piace molto anche purtroppo ai risparmiatori, che devono fare grande attenzione perché si fanno affascinare facilmente da questa pseudoscienza, la chiamo io, no? Questi numeri che arrivano al terzo decimale, previsioni molto puntuali, affascinano, danno l'idea di che chi c'è dietro sia un grande esperto che possa illuminarci, dirci la verità che è nascosta a tutti gli altri. In realtà no, non è così, cioè sbagliano e anche tanto. E la cosa interessante è anche vedere come sbagliano, nel senso che in realtà poi questo è quello di cui parlavo, è l'errore medio, ma se poi andiamo a vedere quante volte sbagliano circa 6 volte su 10, no? Quindi un po' meglio che il lancio di una monetina giocando a testa o croce. È interessante però vedere che quando il mercato scende sbagliano 9 volte su 10, quando il mercato sale invece ci azzeccano circa 9 volte, ci azzeccano molto di più, non mi ricordo il numero preciso, ma ci azzeccano di più. Quindi in sostanza loro prevedono sempre che il mercato salga, che è qualcosa di coerente con la storia, no? Perché negli ultimi 120 anni la borsa è sempre salita, ha un rendimento medio reale del superiore al 5%, quindi è vero che la borsa mediamente sale, però ecco, diciamo, non abbiamo bisogno di Goldman Sachs di molto profumatamente pagati analisti di centinaia di grandi banche d'affari, le grandi anche banche commerciali hanno, per sapere che in 100 anni, sì, certo, basta guardare la serie storica. Il problema è se credere o meno a quello che vi dicono 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi. Ecco, la risposta è 2 punti: no, Raffaella. La risposta è ignorare queste cose, possibilmente, adesso è chiaro che è un po' fuori dalla portata del singolo, però boicottarle anche, perché innanzitutto c'è un sacco di gente profumatamente pagata per fare queste cose e uno dice, vabbè, beati loro, no? Magari un lavoro anche divertente. Il problema è che questa massa di denaro spesa per questo circo delle previsioni, comunque poi alla fine grava su chi i prodotti finanziari li compra, quindi dal conto corrente al fondo comune, tutti i prodotti a gestione attiva, i prodotti bancari, in sostanza incorporano anche questi costi, perché sono dei costi, diciamo, di struttura. Quindi se non ci fossero sarebbe sicuramente meglio, visto che non servono assolutamente a nulla. Il dubbio che rimane sempre è anche che ci sia un minimo di dolo, no? Perché è chiaro che se io dico sempre che il mercato azionario salirà, la gente sarà propensa a comprare dei fondi comuni o comunque dei prodotti finanziari con un elevato contenuto azionario, che innanzitutto io li vendo, cioè non io banca o io grande società di asset management li vendo, e quindi di per sé sono contento. In più, soprattutto quelli azionari, perché queste previsioni sono soprattutto sulla borsa. Questi fondi hanno un carico commissionale più elevato, per esempio, di fondi obbligazionari, no? E quindi ecco, c'è anche il sospetto che siano un minimo pilotate, che non venga ben visto un analista che dica magari per 3 anni che la borsa scenderà. Quindi il suggerimento è ignoratele o al limite ridetene, guardatele un po' così e se ne può scherzare con gli amici. E veniamo a un'altra questione, cari ascoltatori, sulla quale secondo me state un po' pochino attenti, poco attenti, cioè sul conflitto di interesse di chi voi scegliete, o mi auguro non scegliate, ma insomma in maggioranza invece scegliete, che è il sollecitatore dei vostri acquisti di titoli per investire i vostri risparmi. Proprio, cos'era, un annetto fa, forse poco meno di un annetto fa, facciamo una trasmissione nella quale sempre gli amici di Advisory avevano fatto, ed era sempre Raffaele Zenti se non ricordo male, avevano fatto un calcolo di quanto annualmente, cari poco attenti ascoltatori, voi retrocedete in commissione ai collocatori, praticamente in un sistema bancocentrico quasi sempre promotori bancari, quasi sempre, non solo, ma insomma in stragrande maggioranza, attraverso le scelte che voi fate dando retta a loro e quindi mettendo insieme, no, una serie di dati per fare questo conto, perché era un conto che va fatto analiticamente con una certa precisione per impedire che poi le banche e l'industria del risparmio insorga, e cioè bisogna prima fare l'aggregato di tutto il patrimonio gestito per, sommando diversi prodotti di investimento, quindi i fondi, le polizze, unit link, i fondi pensione, la gestione patrimoniale e così via, poi vedere l'ammontare di commissioni pagate dai risparmiatori, perché cambiano per diversa tipologia di prodotto, voi non state molto attenti a questo, e poi di lì ricavare il tasso di retrocessione ai collocatori, cioè quanto poi delle commissioni pagate ai risparmiatori va ai collocatori. La cifra che era venuta fuori era impressionante, cari ascoltatori, perché era pari quasi alla metà del risparmio aggiuntivo di un anno italiano, cioè erano per 2 anni fa, scusate, 2014, erano la bellezza di 23-24 miliardi di euro retrocessi ai collocatori, Ora, questo fenomeno, cari ascoltatori, poiché il margine di intermediazione delle banche sta ulteriormente scendendo con i tassi di interesse praticati dalla BCE, e le banche hanno un enorme problema, perché questo significa che il margine di intermediazione scende, loro per fare margini devono, ed essendoci i depositi un po' frenati dopo la crisi di novembre, continuano a salire ma meno di quanto capitasse prima novembre, le obbligazioni bancarie la cui sottoscrizione scende a doppia cifra di mese in mese perché la gente inizia ad avere paura, devono sostituire il più possibile i margini di intermediazione ordinario, che con i tassi negativi tende a zero, con commissioni più alte. E infatti questo si vede dai bilanci bancari. Le banche che vanno meglio stanno facendo così. Banca Intesa, per esempio, nei conti 2015 ha più che pareggiato, veramente più che pareggiato, i 7 miliardi di euro che ha fatto in meno da margine di intermediazione del conto economico annuale, con aumento delle commissioni per più di 7 miliardi, di sole commissioni. E allora, di queste commissioni poi una parte va ai promotori, però la somma di quello che va ai promotori nel 2014 erano 23-24 miliardi di euro. Che cos'è questa somma? Metà dei risparmi aggiuntivi di un anno agli italiani è il costo annuo del conflitto di interesse del risparmio gestito. Ed è un conflitto abbastanza grave, ai miei occhi scandaloso, perché è su questo che il regolatore, che dorme nel nostro paese, dovrebbe intervenire con denti acuminati. Cari risparmiatori, mentre invece ne avete sentito l'autoassoluzione al rapporto annuale della Consob per le obbligazioni bancarie 10 giorni fa. Allora, la domanda diventa: c'è un modo per tentare di abbattere questa specie di moria del vostro risparmio, questa quantità così elevata del vostro risparmio che va in retrocessa a chi ve lo colloca per conto delle banche? Domanda, risposta, sì, c'è, e la vediamo tra poco, sempre che la Consob anche in questo caso faccia quel che è già obbligata a fare, ma per il momento non sta facendo. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, sintesi della prima parte. Non date troppo retta alle previsioni a breve dei mercati finanziari, perché l'errore commesso al 98 oggi sullo Standard & Poor's 500 in media è stato pari al 1807% nel breve, quindi non dare retta. Ma secondo, il gravissimo problema del conflitto di interesse al risparmio gestito nel nostro paese. Raffaele Zenti, ho sintetizzato bene quello che avevi scritto un annetto fa più o meno? Cioè le cifre erano quelle? Io non avrei saputo fare di meglio, quindi ma vai al diavolo, scusa se te lo dico fuori dai denti in amicizia. Allora, voi capite bene che se la metà del vostro risparmio aggiuntito, cari ascoltatori, ogni anno lo date ai commissioni di retrocessione, c'è qualcosa che non funziona nel sistema di sollecitazione dei prodotti finanziari nel nostro paese. Ed ecco la risposta secondo me, la mia opinione. È con noi Massimo Scolari, il presidente di Ascosim, cioè l'associazione delle società di consulenza finanziaria, e il problema è puntare sui consulenti indipendenti. Allora, perché prima ho polemizzato con la Consob, cosa che giustamente lui non deve fare, ma insomma lo faccio io, perché la Consob sarebbe impegnata a realizzare, mi corregge Scolari se sbaglio, un albo unico finalmente della consulenza finanziaria, non più solo con i promotori finanziari delle banche, ma con quella che io considero la soluzione vera, cioè i consulenti indipendenti. Allora, spieghiamo a chi ci ascolta, Massimo Scolari, se lei è d'accordo con questo enorme conflitto di interesse, con questa rapina del risparmio degli italiani, e che cosa sono i consulenti indipendenti e perché è così indietro la Consob nel farvi fare l'album nuovo promesso. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, spero, essendo in treno, spero che non, la mia voce si sente bene. Allora, buonasera a tutti e grazie, saluto Oscar Giannino e saluto naturalmente anche Raffaele Zenti, con cui mi complimento per le sue attività di analisi e ricerca. Il tema delle cosiddette incentivi o retrocessioni nell'ambito del collocamento dei prodotti finanziari è un problema che è vissuto in modo molto rilevante sia nel nostro paese che in tutti i paesi europei, tant'è vero che la nuova direttiva MiFID che è stata approvata nel 2014 e che entrerà in vigore nel 2018 interviene con una certa intensità proprio per la limitazione di questo fatto, che effettivamente va a danno dei risparmiatori. Che cosa succede? Che di fatto il peso commissionale della distribuzione dei prodotti finanziari sta spingendo sempre di più i risparmiatori ad agire indipendentemente dai collocatori, dalle banche, dai promotori, e notiamo sul mercato un progressivo ricorso a strumenti del fai da te, cioè all'accesso diretto agli acquisti, alle sottoscrizioni attraverso piattaforme, eccetera, eccetera. E questo, lì si rischiano nasate. E lì però naturalmente il risparmiatore, per quanto evoluto e informato da tutti gli strumenti che esistono, va incontro evidentemente a dei problemi di insomma, di difficoltà di fronte alla complessità dei mercati, degli strumenti, eccetera. E quindi la cosa, come diceva poc'anzi Giannino, la cosa importante sarebbe quello che nel mercato, come anche in altri paesi europei già da anni succede, vi sia lo sviluppo di una categoria di consulenti che non sono pagati in funzione di quello che propongono, ma vengono remunerati direttamente dal cliente sulla base del fatto che riescono a dare un buon servizio al cliente, come qualsiasi altro professionista, come un medico, come un avvocato, come un commercialista che assiste il proprio cliente a trovare le soluzioni migliori per sé e, se fa bene il suo lavoro, viene remunerato dal cliente direttamente e quindi non ha il conflitto di interesse di essere remunerato sulla base di quello che suggerisce, dei prodotti che suggerisce. Noi siamo in una situazione in questa fase come se noi nel sistema sanitario avessimo dei medici che, anziché essere pagati dai propri pazienti, venissero remunerati in base ai prodotti farmaceutici che suggeriscono ai propri pazienti. È un bel esempio per far capire a chi ci ascolta che è una cosa abbastanza terrificante. E quindi? Diciamo da parecchi anni è stata varata una legge che consente lo sviluppo di questa nuova professione dei consulenti indipendenti. L'albo dei consulenti indipendenti avrebbe dovuto essere creato secondo una legge nel 2008. Siamo ancora in attesa, non è mai stata applicata senza nessuna motivazione. Finalmente con la legge di stabilità dell'anno scorso è stata fatta una nuova legge che consentirà appunto la creazione di questo albo unico dei consulenti finanziari utilizzando l'attuale albo dei promotori finanziari, quindi estendendo anche all'attività di consulenza indipendente questa realtà che già esiste, strutturandolo in sezioni separate per ospitare, diciamo, anche i consulenti indipendenti. L'esistenza di un albo è importante perché secondo la normativa esercitare l'attività di consulenza finanziaria giustamente è un'attività riservata a chi è autorizzato, quindi ci vuole un albo per distinguere i ciarlatani dalle persone serie. E quindi il nostro appello, perché il tempo finisce, cari ascoltatori, aiutateci, mandate anche voi delle lettere a sostegno della battaglia, perché la Consob si svegli, perché non ha ancora fatto niente di quello che doveva fare, perché la realtà è che le reti dei promotori delle banche premono e sono molto ascoltati dal regolatore, come avrete capito nella sua autoassoluzione, mentre invece il vostro interesse è a non farvi fottere dalle reti bancarie che hanno bisogno delle vostre elevate commissioni, visto che non hanno margine di intermediazione con i bassi tassi. Avete capito? Ecco, questo è il punto. Diamoci tutti da fare perché questo albo nasca e così sia tutto più trasparente in coloro che dovrete scegliere per avere dei consigli che non sono inquinati da quanti soldi porta a casa se vi frega, non dicendovi il rischio di cosa che sottoscrivete. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai conti da Belva, non mancate!